sognato. Capito? Il giorno di Natale però, ma no, 24 notte. Il giorno di Natale a pranzo andiamo lì. Gli altri giorni mi sei costretto a stare a casa. Mi allontano un attimo, riprendi Gianfra. Sì, ma poi il punto è un altro. Ma possibile che non si riesca a fare un piccolo sacrificio, perché guardandolo poi a distanza questo problema, è un piccolo sacrificio che viene chiesto, non è che è la fine del mondo, anche rinunciare al Natale, alla Pasqua. D'altronde nel corso della nostra vita tante volte abbiamo dovuto rinunciare a qualcosa, o perché fa vitale, o perché comunque succedeva qualcosa e quindi il Natale non lo festeggiamo per niente. E quindi adesso che è una questione di sicurezza un po' di tutti, si fanno tante storie, si fanno tanti problemi, eccetera. La vita non è quello, la vita è che avere il buon senso di pensare agli altri, a tutti i cari, a te stesso anche. Quindi certe prese di posizione sono veramente di gente che evidentemente sacrifici non ne ha mai fatto. E io sentivo i racconti di mio nonno, di mia nonna, di mio padre che ha fatto la guerra. Altro che non festeggiare il Natale lì. Lì perché il Natale non esisteva, perché dovevi stare attento, tra l'altro mio padre era anche in continente, eri lì. Quando scattava l'allarme, lui non c'era neanche da mangiare, anche volendo fare il cenone, cosa facevi? Adesso è che con questa società che si è creata di consumi, di vizi e di tutto l'altro si è perso il senso anche del sacrificio, del dovere e di tante altre cose. Quindi per ogni minima cosa sembra che stai, che te ne stavi tagliando un braccio. Io no, ma io il sacrificio lo faccio, non ci vado, vengono i figli qua, a casa, dormono qui, eccetera, e facciamo la notte di Natale qui a casa, i miei figli, la mia compagna e io, i quattro siamo. Anche perché, facendogli un po' tu di scongiuri, se dovesse capitare qualche cosa, sai chi avvertire, sai chi con chi eri e quindi non devi fare un elenco di 50 persone a dire no questo, che poi vado in giro a distribuirlo a tante altre, capito? È una questione di responsabilità, di intelligenza anche. Sono ignoranti le persone che non accettano certe cose. Ce lo stanno solo chiedendo per migliorare la situazione. Infatti vedi come è migliorata adesso la situazione, quando non ci sono più locali aperti, gira tardi, eccetera, eccetera. È migliorata, è palese che sia migliorata. È così. Vabbè, claro, devo andare a baciare qualcuno che poi mi prendo un'altra pastiglia, perché mi sto ritardando tutto l'effetto del Natale, è sparito, quindi se voglio dormire sono già 4 giorni che non dormo e devo assolutamente mangiare qualcosa e prendermi questo affare che sembra che sia l'unico che può mandare via questo mal di gola. Vediamo se c'è Marco. Marco, rientratosi. Marco, hai mangiato? Ma quello fa primo, secondo, terzo, quarto, quinto. È una dragonaggia. Vabbè, dai, ci sentiamo più tardi, se ci sei già. Buona serata per adesso. Dai, buona carica quando la fai. Claudio, avanti. Oh, vabbè, dai, ci sentiamo. Avanti se vuole entrare qualcuno, se lo sto chiudendo. Chi è avanti? Farate, Giuseppe. Sì, ho visto che non entravi, Gianfranco è andato a prendersi una pastiglia, a mangiare qualcosa, a prendersi una pastiglia, poi ha detto che rientrava, non lo so però a che ora rientra. Questo filmato me l'hai mandato. Sì. Sì, ho sentito, è entrato Claudio anche. Ciao Claudio, ben entrato. Sì, io praticamente il salato l'ho mangiato adesso, adesso inizio col dolce, però sarà lunga la cosa. Ok, sì, te l'ho mandato, già dare un'occhiata, così, volevo spendere meno possibile, meno possibile, e quella era la cosa più economica. Ehi, ti sei accontentato di poco questa volta, io no. Già, a me piaceva da matti, solo di aspetto, piaceva da matti il Texun S2000, quello che sembra un radione militare che ha le maniglie ai lati. Texun S2000, però 350 euro, no, per carità, più, basta le spese folli. Io capito, non tutto si fa bene nella vita, tante cose piacciono, si possono prendere, si lasciano dove sono. Guarda, se potrò, perché è veramente impegnativo, volevo pigliare col rosmetro d'aiba, famoso CNX 801, il 901, però dubito già, come l'altra volta a fuoco di paglia, poi io ho rinunciato, che cioè, se lo prendo preciso, cioè voglio una cosa un po' degna di questo nome, un vero strumento di misura, non un giocattolo. Sembra un transistor, che bellina. Sembra un transistor? Sì, quello era il transistor che facevano prima. Sì, siamo lì, quello è più piccolo del Texun, allora come larghezza, il lato lungo è come uno smartphone, il lato lungo, in altezza è 2 cm più alto dello smartphone, capito, molto più piccolo del Texun 660. Marco, guarda cosa ti ho mandato, non dire niente. Sì, sto guardando, c'è una bella moretta, vediamo dove va. Non sarà correndo al cesso, no? Aspetta un po'. Ogni drodio. Scommetto che c'era la gente in riunione, aspetta. Ancora? Sì. Si vede un tipo. Scommetto che c'è la riunione. Vabbè, scioccato. Ha ricevuto l'altro? Sì. C'è... Sì, ok. Ci sono due versioni, ricordati. Te lo scrivo là. Marco. Ecco, comincia, dai. Altri 10 minuti e poi... andiamo a portare il cane, mangiare già pronto, la cena. No, io non c'ho pronto nulla, ma non ho voglia di mangiare perché ho mangiato abbastanza a pranzo, adesso ho fatto il merluzzo, i filetti di merluzzo con la pizzaiola, mi piacciono un bel a me quelli lì. E ne ho mangiato 4-5, cavolo, di filetti, sono ben di mani, però... mi piace, me l'ho mangiato, non l'ho mangiato prima, ho mangiato solo quello e poi la frutta, boh. Sì, beh, in questo periodo non è che noi ne abbiamo molta voglia neanche noi, però ho preparato un po' di pesce anch'io, cappa, poi insalata, poi vediamo, formaggio, qualcosa del genere, insomma, qualcosa si mangia, dai. Infatti l'aria mi ha detto, prendo le pizzette, ho detto non le prendere, e già sono ingrassando e mi metto un cosio. Io l'ho prese quando? 2 giorni fa, da Oggiano le ho prese, le pizzette al taglio a me mi piacciono più della pizza normale, lo sai, e mi ha detto un bel. Le ho prese da Oggiano perché le porta, se no le avrei prese anche da Pudica, perché quelle di Pudica mi piacciono di più che sono croccanti, invece quelle di Oggiano, ma è venuto un ragazzo un po' imbranato a portarmele, mi ha telefonato 3 volte, non trovava il numero, ha detto scusa, ma se tu vai in fila e guardi tutti i numeri pari, il numero lo trovi, ma dove? Io sono oltre la rotatura, allora la rotatura non ci deve arrivare, devi tornare indietro, c'è un'agenzia funebre a fianco all'agenzia, c'è il mio portone, aspetta, poi richiama, non l'ho trovato, sono, guardi io adesso sono al numero 26, cioè, ma dove stiamo andando a cose? Io le cose le ho fatte, da una parte ci sono i pari, dall'altra i dispari, se ti dico il numero lo devi trovare, c'è poco da fare. Vabbè, capita. Anche qua il labirinto a volte, però vabbè, io vado sempre, sempre lo già, lo stesso, dal fratello, Daniele, quello grande. E quindi manda sempre, sempre lo stesso, poi di carbonati, quello che consegna le pizze, quindi mi conosce. Però può capitare che ci sia qualcuno nuovo e che sappia la zona, ma magari non si trova. Vabbè. Sì, le pizzette sono buonissime, anche a me piacciono tanto. No, le prendiamo, le pizzette le prendiamo da Vittoria, perché le pizzette di oggi non mi piacciono. La pizza è buona, le pizzette sono troppo molte. Allora prendiamo la Vittoria via Tempio, la pizza la fanno la prendo io, è molto buono. No, ma ho detto non prenderne, mangio una cosettina leggera, ho mangiato riso in bianco a pranzo, perché mi è venuto un colpo di colite oggi, ieri, già da ieri ce l'ho. Evidentemente sto mangiando male, in fretta, qui, là, nervoso, cosa ne gioco? Queste preoccupazioni che ho, mia moglie non riesce ancora a razzarsi. Vabbè, speriamo tutto bene, ma se vi andate 16 al controllo. Sì, vabbè, già lo so, cosa che ci vuole il suo tempo per passarti bene, ma già passano, non è che siano cose. Comunque la cosa di disinteria l'ho avuta anche io ieri, mi sono sentito male, avevo avuto mal di pancia forte, ma forte però, avevo avuto un attacco di diarrea allucinante. Adesso magari qualche virus che c'è nell'aria, amici Claudio, perché ho sentito già altre due o tre persone così. Vabbè, io non è che mi preoccupo più di tanto, ma di tanto me lo fa. Io ho la colite, quindi secondo quello che mangio, capito, lo fa. E allora oggi a pranzo io e mia moglie ci avevamo fatto un risottino in bianco con un po' di olio crudo e formaggio, e vabbè, stanotte lo stesso leggero, ho fatto due merluzzi, un po' di salata, poi vabbè già c'è altro, quindi già va bene. Vabbè. E Marco ancora mangia niente? Il dolce sta mangiando, Marco. Avanza, di nevaria. Marco. Sì, sono tra un boccone e l'altro, dai, ribadisco i saluti per Claudio, non so se prima mi ha sentito, dai, e sto anche messaggiando. Ciao a tutti, continuate pure. Messaggio, avevo qualche bella pivella, sì. Ciao Marco, lì, no, non ti ho sentito perché mi sono allontanato, che c'avevo roba al fuoco. Con qualche bella pivella, no, lì ancora dobbiamo ripartire dopo in memore. No, è stato fatto un sogno a proposito di pivelle. Così, come le manda la mente, arrivano. È la voglia, Non è che le manda la mente, è la voglia. La trivella, non con la pivella, sta trivellando il letto. Via. Sì, quella è la porra, mi, che fa fare certi sogni. Ok, dai, bianco per me. C'è ancora le polluzioni notturne, c'hai. No, polluzioni no, però c'ho le stalattiti in camera, sul soffitto. Che può far cosa? Avanti qua. Sai, poi le viene la maniconia, le viene, poverino, lascialo stare. Vabbè, Marco, meglio solo, ma fatti di. Meglio solo, guarda, mamma mia come sto. Vabbè, meglio solo, cioè io non sono tipo che per il matrimonio, io l'ho sempre detto, però ci vuole la componente femminile, perché poi comincia a pesare, me ne accorgo. Va bene, dai, chi è che mi manda messaggi? Aspetta un attimino, riprendete. Io. Vabbè, sono a un certo punto già. Va bene, però allora io sono abituato, sono 40 anni, con mia moglie, mia figlia, che adesso è andato, chiamano, non è? Dai, che è venuto qua, tutto di tutti, che vuole uscire. Ci sentiamo dopo già, ok? Se sei qua già, porto il cane e poi già ritorno. E mi sa che lo faccio anche io adesso, che intanto non c'è nessuno, Marco, non so se rientra, allora vediamo un po'. Dai, buona passeggiata, ecco, avanti Marco. Io torno subito io, tempo di farle fare i bisognini qua sotto, poi ti arreggiare. Ehi, buona passeggiata. Gianni, io devo staccare, dai, se no non riesco a completare qua. Ehi, e quindi vediamo questo Natale se sarà proficuo oppure vediamo cosa c'esce. Ma ok, dai, qualcuno entrerà adesso, io mi devo assettare per forza di cose. Chi è chieta? Tutta la sera siamo i due massoni, a lui. Va bene, dai, ci sentiamo, buona serata e buon tutto. Non mangia troppo che ti va di male. No, troppo no, è che sono lento. E oggi tutto a posto, portante non ce n'era, no? No. Sì, beh, eravamo due persone, c'eravamo io e Gianfranco, tutta la sera. Claudio ogni tanto faceva cucù. E poi è andato a prendere la figlia, quindi si è sentato e poi si è entrato tu proprio di fuggita, toccata e fuga. Ehi, perché non riesco a stare seduto fisso qua. Magari una volta lo facevamo, ti ricordi, iniziavamo dalle tipo 3:30 del pomeriggio, quando tu avevi, che ne so, il turno la mattina di lavoro, tipo dalle 3:30 del pomeriggio fino alle 9 di sera, cioè tutta la sera in che la tira avanti. Ti parlo dei primi anni 2010, dai, primi anni 10. No, che sto dicendo? Sì, anni 10, giusto. Noi già me lo ricordo. Però prima non si faceva il notturno, adesso si riprende dopo le 8, c'è sempre qualcuno. Invece prima non esisteva questo, se prima quell'ora lì chiudevi, boh, lo avevi nessuno. Ah, qualcuno sta entrando però, e io dopo una certa ora mi voglio guardare la TV, mi metto in quella sdraio, una volta la seguivo dal letto, però è lontano, è dalla parte opposta della stanza, no? Siccome la vista non è più buona come una volta, e non ho nessuna intenzione di mettermi gli occhiali dentro casa, c'ho una sdraio di quelle banali, no? Ce l'ho vicino alla TV, bello, vedi lo schermo largo, poi la messa a fuoco riesco a mettere a fuoco, ecco, senza occhiali, a quella distanza, e così, dai. Ok, sento anche la diamato, un po' di tutto c'è oggi, abbastanza animato, eccetera. Poi vabbè, per le prove più approfondite di quella radiolina le farò quando la batteria è carica, domani, dopodomani. Io sono curioso di provare l'antenna risonante dalla bara mobile, naturalmente in zona molto alta o comunque molto libera. Quella è la prova vera e propria che vale, perché la 5 ottavi, è, a parte che è corta per i 40 metri per esempio, poi non è risonante, capito, no? Ok. Marco, se vuoi, tra 2 minuti sono pronto. Ehi, Giulio, scusa, sono ancora qui, adesso organizzo il tutto, dai. Organizzo il tutto, un attimino. Gianni, dai, bianco per me, che devo fare una cosa. Ehi, ehi, ciao. Ciao Giulio. Ciao Gianni. Ma ti stai lontano? Sì, sto facendo una cosa. Ok. Ebbene, non parlate qua. Un attimino, che... Porca miseria, mi sono ricordato che l'antenna è pure staccata, la devo riattaccare da fuori. Quindi abbi pazienza. Va bene. A me è un'altra sedia. Sei anche qua? Allora lì c'è troppo QRM causato dal ripetitore cellulare che è attaccato a me. Ecco chi stai parlando. No, una prova con una persona in TMR. Ah, no, io ce l'ho spento. Spento. Arriva, chi è? Gianni. Ma no, io, a me mi sentirai, l'altro è Giulio. E come mai non arriva da me? Arriva a Manetta l'altro giorno. Tu Claudio, come la senti la tembrica? Aspetta, troppi microfoni accavallati. Non ne sto capendo niente. Cuore matto, Claudio, ci sei? Test, qua l'antenna è a posto, il 27. Oioia. E beh, Bombolo. Chi è avanti? Buonasera. Ciao, Marco da questa parte. Ascolta, l'avevi poi provato quella cosa programmata? Lo vuoi provare? Approfittane adesso, Sì, lo proviamo, dai. Che c'è un po' da mangiare, che il bopping che stai dicendo. Sì, sì, praticamente volevo essere discreto e sì, quello lì. Ok. Dai, prova. Aspetta Claudio, che se no non riusciamo. Mi devi dire la timbrica com'è là? Oh, yeah. Non ci capiamo. Ma cazzo, ho sbagliato il microfono, scusa. Dai, chi può tornare qua, torni qua. 1, 2, 3, canale 10 che c'è? Ehi, vediamo se c'è anche Giulio, Claudio, Gianni. Ciao Gianfra. Oh, yeah. Bene. Allora, non mi dici niente di questo giocatuino. È in carica Gianfra, ho fatto un video dimostrativo attaccando dalla 5 ottavi sui 40 metri, così proprio in un minuto, tanto per... Però tu WhatsApp non ce l'hai, non te lo può girare nemmeno nessuno. È in carica, vorrei fargli la prima carica perché era due tacche, dai, la batteria. È di quelle stilo lunghe, tipo torce tattiche, la 18650 la batteria, litio, 3,7 volt. Sì, la conosco bene. Ottima quella soluzione. Dura tantissimo così. Dipende anche dalla marca. Quella di serie dovrebbe essere 2 ampere. È bella pesantuccia e quindi non è di quelle mezze vuote che vendono alcuni cinesi, certe sono proprio vuote, sono leggere. Quella 2 ampere ne vendono una Samsung da 3 ampere su Amazon lo vendono, 3 ampere, sempre col cappuccetto sporgente, col positivo a bottone in fuori, capito? Se no c'è anche piatta, ma piatta non fa contatto. Lo so, ma costa anche parecchio. Su Amazon costano abbastanza. E anche su eBay. Questa Panasonic, Samsung, costa 7 euro. E spicciolini più la spedizione però. Insomma 10 euro, dai. Sì. Aspetta Gianfra che stiamo facendo prove. Come mai arrivi meglio adesso? Aspetta un attimo. Aspetta Gianfra. Mi hai chiamato? Tu sei S4. Eia, aspetta, Gianfra, che non riesco a gestire appunto due. Prima ho sbagliato anche i microfoni incrociati, anziché. Stavamo facendo una breve prova. Dimmi Gianfra. No, tu eri S4 qua. Solo. Che miseria. Marco, ci sono. Ciao Gianfra. Ciao Giulio. Ti stavo ascoltando anche io, arrivi qua comunque. Arrivavo da te, Gianfra. Sì, sì, senza neanche mettere l'antenna a quella alta. Ho capito. E com'era? Com'era? Bella, brutta, com'era? Sporca, pulita? Ma guarda, ti ho sentito proprio per un attimo, mentre sentivo molto bene a Marco. Se parli adesso, magari un attimino ti dico com'è. Guarda, ho detto come mai adesso ci parlo, attento Gianfranco, non so se mi stai ascoltando, adesso parlando di tutti e due, anche il 27, non so se mi stai ascoltando, avanti Gianfranco, 1, 2, 3, prova. S5, radio perfetta. Aspetta un minuto solo, 30 secondi. Va bene. Ricordatevi comunque di portarle lì la radio sempre a 12.5, non a 25 come fanno molti, che se no occupano tre, quattro canali adesso. Ma io infatti ai tempi di Pomponi avevo raccomandato di usare FM stretta, però non gliene frega niente a nessuno. Perché quando entrambe le stazioni sono in FM stretta si sentono bene, benissimo. Certo, se uno trasmette in FM stretta e uno riceve in larga, lo sente più basso il radio, però se tutti sono in sintonia, tra virgolette, si sente bene comunque. Voglio far capire. Ah, piuttosto, l'altro giorno, ecco perché io non ne voglio usare PMR né nulla, né pseudo PMR, c'erano quelli dell'ospedale. Si sono presi a parolacce con qualcuno che modula sul 7 PMR perché quelli hanno detto di spostarsi, quello gli ha risposto per le rime, quello peggio, insomma, si sono presi a parolacce. E io, per evitare di sovramodulare gente da pronto soccorso lì che non sento, preferisco non usarlo proprio. Infatti Giulio, io l'ho installato per prova, io non tengo nulla installato qua, non voglio roba che non sia... capito? Metto l'omologato e il ricevitore, punto. Le altre cose sono optional, ok. È arrivata Giulio? Sì, ma sempre basso, molto basso, hai registrato basso, vabbè, non fa niente, dai, ci sentiamo, interessante che tu mi ascolti bene, poi la registrazione non è così importante. Ciao Marco, grazie per le prove, dai, ciao Gianfra, ci sentiamo, mi hanno chiamato da poc'anzi per andare a cenare, alle prossime, ciao ciao, vai Gianfra. Ok, ciao, buona cena Giulio, riprendi Marco. Eia, ciao Giulio, ho sbagliato, non ne sto capendo più niente Giulio, ho sbagliato registrazione, ti ho mandato la stessa di prima. Ti dico solo che dalla prima all'ultima fatta c'è una differenza abissale col tuo segnale, quindi qualcosa è migliorato. Ok. E poi non ne sto capendo niente. Claudio, ci sei? Scusa un attimo, scusa se ci sei qua. Vabbè, mandami allora la seconda che hai fatto, quella più conforme alle qualità della radio, dai. Poi già l'ascolto dopo, ci sentiamo, dai. Ciao, ciao, vi saluto, ciao. Ok, mando, sì, perché ti spiego, la galleria, siccome ce l'avevo già aperta, non aveva aggiornato il nuovo file. Così, ecco, sì, ho aumentato il segnale, ho alzato anche il volume, però ricordati che il limite è il microfono dello smartphone, più di tanto non registra, non va più di tanto, si autolimita, diciamo, come volume. Ok, d'accordo, ci sentiamo, ciao, ciao. C'è da pazziare tra microfoni, bande, cose, smartphone. Allora, Gianfra, con la serie Stalk ho scaricato RaiPlay e ho guardato i primi due episodi. Certo, episodi all'anima, 20 minuti e si sono rovinati. 20 minuti episodio, credevo fosse la sigla quella. Vabbè, è un'esclusiva d'altronde. L'hanno fatto, quindi... Però è carino, eh. Naturalmente, sai, nel primo o nel secondo episodio anche non c'era niente di succulento, di veramente succulento, il bello verrà dopo. Quindi comunque sì, il replay funziona, per vederlo mi pare ho dovuto mettere l'indirizzo di posta e mi pare la data di nascita, insomma una mini registrazione gratuita, dai. E già che c'ero ho scaricato anche l'altro. Uno è il replay, l'altro è Mediaset. Aspetta, non me lo ricordo. Mediaset Play, sì, che non ce l'avevo qua. Sì, esatto, Mediaset Play. Poi ho visto che anche molti film adesso, forse sono finiti i diritti, li stanno andando su YouTube. I film completi in italiano, infatti sono tutti vecchiotti di norma, ma comunque se uno vuole vedere qualcosa di datato, che sono sempre belli, lo guarda. Che poi io queste applicazioni non le avrei manco scaricate, perché bene o male prima attraverso il browser facevi tutto, e che adesso ti spingono a scaricare l'applicazione. Che ricordi, sto parlando di un po' di tempo fa, dal browser si faceva tutto, adesso sempre ti arriva l'avviso, scarica l'applicazione, ecco, scaricata l'una e l'altra. Sì, comunque la qualità è ottima, niente da dire. Invece la TV Box Android ha qualche problemino, perché è come se fosse di qualità meno di 480p, non lo so, perché non paga quelle royalty o come si chiamano, c'è un termine preciso, anche se guardi Netflix vedi tutto a qualità infima, è un termine particolare che non mi viene, Gianfra, sicuramente te lo ricorderai. È un TV box cinese, è cinesissimo, non mi ricordo il termine, vabbè. Oh, sto uscendo, sì. Sì, stai uscendo, ero io che stavo, che c'ho dei segnali che volevo identificare, ma sono io troppo veloce, o sono segnali occlusivi di qualche oggetto. Vabbè, cosa sto dicendo? Non me lo metto più. Niente, ti stavo dicendo che collegando le cuffie con un oggi sono mezzo tilt, adesso mi devo riprogrammare. Allora, aspetta un attimo che premo il pulsantino rosso di reset. Ehi, poi ci vorrà un programmino, no? Quello che mi scoccia... vabbè, l'ingresso audio, cosa devo usare? L'ingresso audio costante, no? Del computer, non quello microfonico, livello audio, quello segnato in azzurro mi pare sia. Porca miseria, sai che non me lo ricordo. Pare sia verde l'uscita altoparlanti, rosa il microfono e il blu quello, già capito. In, audio in. Della verità dovrebbe essere... audio tutto, perché è un'uscita. Comunque, a prescindere da quello, in caso proprio ci siano problemi di prese, dai cinesi vedono quei doppi jack, no? Da una parte ci metti le cuffie così puoi ascoltare un altro parlante lì, e dall'altra parte ci può mettere un ingresso per il PC. Lo colleghi alla linea di ingresso audio o anche al microfono, però in tal caso devi regolarle l'ingresso per non serve che non vada saturazione, devi togliere tutti gli eventuali effetti speciali, quelle cretinate lì, e avere l'audio più pulito possibile. Fatto ciò, puoi iniziare a ricodificare, ti devi impostare un pochettino il programma. Io ti consiglio molti PSK di un francese che ha molti sistemi di decodifica, e poi iniziare lì a ricevere telescriventi, stick e track, track e trick, PSK in tutti i modi, etc. E vedrei anche un po' fino ad arrivi, ecco. Sì, sono qua. Programmino, poi vabbè, avrà un certo nome, eccetera. Sì, mi chiedevo prima, John Flash, se passando tramite l'audio l'uscita a cuffia, no? Per i colori parlavo del computer, del lato computer, diciamo, no? Che ricordi quello l'anellino cerchietto d'azzurro e l'ingresso audio, sì, se non ha cambiato. E dicevo, perde un po' rispetto a che non prende il segnale dalla IF, come si chiama, non mi ricordo la sigla, cosa significa? Sì, dalla frequenza intermedia, praticamente sarebbe l'uscita di una radio prima dell'amplificatore audio, tutto lì. E questo serve la metodo di lì per evitare tutti gli sconquassamenti in termini di frequenza, di toni, di trick e track vari, dovuti proprio a qualsiasi amplificatore che si interpone all'uscita di un segnale che deve essere grezzo, in parole povere, così come mamma l'ha fatto. E più pulito sarà quello e più facile sarà la decodifica. Tieni presente che comunque in HF, quindi nel tutto il tuo range, questo problema non è così grave come lo può essere in gamma UHF o UHF, in cui i segnali sono molto ma molto più veloci. Di lì si parla di al limite anche di 1200 è abbastanza basso come rapporto di segnale, quindi se ad esempio quella radio andasse fino ai 144 per dire, riceverete tranquillamente tutti i segnali packet già con questo sistema. Andando oltre, iniziando a parlare di velocità superiore a 1200, allora iniziamo subito i problemi, perché segnale d'ingresso al piscina va sempre pulito. Io sono sempre qua, se ritardo a rispondere perché stavo mettendo a posto qua la baronda che ho fatto, io. Ascolta, il programmino che cosa ci vuole grosso modo? Ce n'è uno che fa un po' tutto oppure programmi specifici per ogni tipo di emissione? Di moto, come vuoi chiamare, di emissione? No, il programma che ti ho detto, te lo ripeto, è molti PSK del francese Patrick, non abbiamo attore, è abbastanza completo, quindi ci sono tanti programmi, sia uso amatoriale, sia uso civile, ti decodifica anche il CV tra l'altro, quindi se c'è qualche curiosità di vedere da chi vengono questi titoli, magari riesci a captare anche stazioni molto lontane, perché il guadagno ovviamente rispetto alla voce è enormemente superiore. Idem col PSK, programma gratuito, solo la versione diciamo professionale è abilitata credo per 5 minuti, ma per tutto l'altro poi sei tranquillo, può anche trasmettere volendo, così ti riesci a capire quali segnali diciamo sono, ovviamente non trasmetterai l'aria, trasmetterai tramite l'altoparlante, però riesci a un po' identificare, a differenziare i segnali, ecco, se c'hai un po' l'orecchio musicale. Bien. E infatti tutto da provare, naturalmente penso che comunque la userò solo in SSB, perché le radio AM non è che, o comunque o quello che è, comunque roba amatoriale, non, le radio BCL non è che mi interessano più di tanto, tanto meno la banda aerea poi, proprio quella zero totale. Diciamo magari forse non siamo a livelli di Texun, però ha delle cose al Texun mancano. Che ne so, il Texun e altre, tipo l'attenuatore, lì mi pare che non ci sia attenuatore, però con questa piccola puoi selezionare la larghezza di banda di ricezione in SSB, tipo 1 kHz, 1 kHz 2, 4, roba del genere, non l'ho manco provata, ripeto, proprio acceso e sintonizzato, registrato e poi messa in carica. Dunque sì, roba abbastanza economica, però cosa puoi? 63,90€, 6,3€, c'era un'offerta temporanea, ogni tanto la fanno, bisogna beccare l'offerta temporanea e la paghi meno. Mi avevano mandato anche dei coupon da Amazon, però quando c'erano i coupon ero senza soldi, ho capito. Prima un coupon da 15€, adesso me ne è arrivato uno da 8€, e prima ancora uno da 10€, insomma ogni tanto, e le mandano caso strano sempre quando sono senza soldi, sembra fatto apposta. A me che sono iscritto invece non me ne mandano, che pezzi di piglia, insomma ci siamo capiti. Vabbè, l'ultimo me l'ho mandato per un oggetto che avevo preso di 5€, l'ho subito sfruttato perché io comunque prendo materiale da Google, sono da un paio d'anni già cliente fisso e praticamente faccio ritiri, anche 5-6 ritiri al mese, di tutto, di qualsiasi genere, tipo anche le cose del caffè mi tocca prenderli perché qua quelle contenente latte e polvere non le trovo. Così. Comunque, se ci prendi gusto, poi ci sono molte cose interessanti, ad esempio se quella radio riesce comunque con un po' di fortuna a ricevere, che ne so, a 518 kHz, puoi ascoltarti tante stazioni che trasmettono Navtex, insomma informazioni navali. Senza con pochissima fatica, anzi quasi niente, perché fatica non c'è nell'inizio. Eia, mi pare sia entrato bombolo, ho sentito un bip di sfuggita. Adesso controllo il range, 500 kHz, forse parte dai 522, adesso guarda, no, mi pare vada anche più in basso, là. Boh, controllo, dai, un attimino, bombolo ci sei? Ehi, Eia, ciao Anto, stavamo facendo passaggi serrati, un po', vabbè, cercherò di lasciare bianco. Ehi, capo, sono appena entrato. Ho finito di mangiare, e voi? Io ho fatto colazione alle 6:30, me? Oh, potessi testimoniare Gianfranco. Ah, cosa mangi? Tutti quanti ci cosi? Oggi avevo affettato fresco, mi sono fatto paninozzi con una focaccetta morbida e spallacotta e dammere, e formaggio, quello tipo gruppiera, con i buchi. Ah, cappa. Va tu. C'è strano, sì, ma niente, già. Ma tanto ora fa la colazione, che ora te ne scelti da Ruretto? No, mica stavo scherzando, Anto, la colazione la faccio la mattina. Vabbè, con Gianfranco usiamo dire così, però sarebbe preoccupante colazione lì, altro che costa della California, lì siamo tornati indietro in Australia, mi sa. Mamma mia, oi oi oi, ma c'è ancora Gianfranco? Certo che ci sono, ciao Anto. Buonasera, buonasera Gianfranco. Un attimino debellarizzando la roba dalla formula, stavo togliendo, dopo mi faccio la doccia. Stavo parlando così, sentivo ad almeno con Marco. Ma ecco, sì, comunque guarda, con la radio deve andare per forza anche in onde lunghe, quindi se vai in onde lunghe non c'è problemi, quelli la broadcast ma arrivano fino a 120 credo, 120 kg. Passo la notte con le senti quando c'è più segnale. Ah, cosa state parlando? Di quei così, di quei trasmettitori a onde corte, onde lunghe, di quella roba lì? No, di una radiolina che ha preso Marco, che si è comprato Marco. Ti prendi Marco? Un attimo al telefono, arrivo subito. Riprendete. Sto guardando un video, quello delle onde corte, onde lunghe. Cavolo, ma sparano mi. Non credo che sparano. Di lì i watt non si usano più. Di lì si parla di kilowatt, 500, 600, 700 kilowatt. Cazzo, roba da matti, in tutto il mondo li sentono. Devi vedere quelle antenne, le antenne sono alte anche 100 metri tra lici. Lo so. Cavolo. Cata mia cosa. Quelle lì spingono parecchio, Parecchio. Quel tipo di cose lì. Infatti c'era uno che andava, addirittura sapeva quando stavo uscendo di Potenza, sapeva, tale per esempio in Sicilia 5 kW e da un'altra parte 10 kW, da un'altra parte cioè, diceva così questo qua, e avanti, e parla con un culo e ti guadagni il pane, Marco di Caldena. Uno scemo, l'hai sentito tu? No, onestamente no, perché io ho anche sempre un pochettino di squelch per evitare il rumore. Per evitare il rumore? Ha fatto la bernacchia, ha fatto. Ah, se si diverte così, come diceva quello, meglio un gusto che c'è il tomato. Cosa vuoi fare? Lasciamo perdere, va. Se si dovesse dare retta a tutte queste cose, guai. Ah, lasciamo perdere. Hai capito? È così, batterie. E diceva questo qua, diceva, io ho visto un video su YouTube, addirittura sapeva quanto, ma è possibile che sanno quanto sta uscendo? Lo stesso ripetitore Rai, magari in vale regioni, tipo in Sicilia, Lazio, tutte queste cose qua. Ma certo che c'è. Ci sono dei siti in cui c'è l'elenco di tutte le broadcasting, ci sono anche dei libri che trattano l'argomento e ci sono le caratteristiche. Quindi ti dicono la potenza radiata, gli orari di trasmissione e così via. E ce ne sono tantissime. Solo l'Italia oramai è praticamente quella che ne ha di meno di tutti, perché le abbiamo tutte distrutte le stazioni radio, in onde medie. Lo so. Ma onde medie si sentiva in tutto il mondo, Sì, diciamo che andava abbastanza lontano in certi orari, però di norma le nostre erano a livello locale, europeo, dai, perché poi ci sono parecchi fenomeni di propagazione di quelle cose lì che influenzano molto, soprattutto le scariche, con le frequenze. Poi se vai più sotto ci sono le trasmissioni sotto le onde medie. Una volta che tu vai più sotto dei 560, quindi se ben ti ricordi, ma forse tu non l'hai conosciuta, Radio Monte Carlo, che era sui 718 kHz, e quella, figurati, col trasmettitore alimentava l'impianto di riscaldamento praticamente, cioè per raffreddare le valvole portava i termosifoni l'acqua calda, anzi caldissima, forse la dovevano pure raffreddare. Signora Bona, vai tu, e cosa era? E quanto stava pompando questa cosa? E kilowatt. Se tu vedi come le accendono quelle stazioni, ci sono quegli interruttori enormi che bisogna prendere a due mani, super isolati, e abbassarli, tipo leva di montacarichi, dai. Cavolo, ma da vicino non capisci niente da vicino, o no? Cioè, talmente forte. No, senti lo stesso, perché certo se te vai sotto le antenne ti brucia pure il ricevitore, perché tormenta la saturazione. Sì, è normale. È come tu attacchi un chilo, ma te ne viene uno stronzo qua sotto, dice che il finale di trasmissione te lo potrebbe danneggiare. Peccato che dopo un minuto non ve parta più la macchina, perché ti scarica immediatamente la batteria andando a quel valore di potenza. Ah no, allora che imparane. E poi ci vogliono anche le antenne per poter fare quel lavoro. Non è così facile, ecco. Ci vuole antenne e cavo, ci vuole. Perché quando tu vai a spingere più di quel tanto non c'è niente da fare. Ci vuole antenne e cavo, ci vogliono. E soprattutto capacità di poterlo fare anche. Non è a dire facciamo così, facciamo là. Da qualche parte non è un po' difficile ricevere senza antenna. Lo so, però era interessante quei video che ogni tanto mi guardo, sono interessanti, sono tutorial. Sì, io stavo guardando su YouTube, c'è parecchia roba. Stavo guardando un filmato bellissimo, vecchio, no, degli anni 30, in cui stavano tirando su le antenne di una stazione della Marina. C'erano i marinai che si arrampicavano al traliccio anche per fare manutenzione. Mamma mia, ogni cosa pericolosa, non te ne dico niente. È il loro mestiere, cosa devono fare? Sicuramente c'erano migliaia e migliaia di kilowatt ci avevano. Beh sì, quelli sì, a quale frequenza se non c'è potenza non va da nessuna parte. Non lo so come la marina militare. Chi è che è radiato? Chi è? Ai. Chi è? Avanti. Se volevi dire sì, in giapponese hai sbagliato la pronuncia, o meglio la tonalità. Ah, così si dice, non lo so parlare in giapponese. Quello di più che altro era qualcuno che ha fatto una battuta da attaccare. Adesso non mi esce bene neanche perché sono rauco. Hai, dovrebbe essere hai, detto velocemente, capito? In tono marziale, vuol dire sì. Però con una cadenza più veloce e marziale. Parliamo nostro, ebbè, bombo. Ebbè, cla, buonasera. Ehi, aspettando, adesso fra un po' andiamo a cenare e poi spegniamo tutto, sto preparando la cena. E cosa per la partita, Tanuti? No, ce n'è una, ma non mi interessa, no. Ce l'anticipo la serie, ma non mi frega niente. Domani, sabato e domenica, dai. Domani verrà Juventus sicuramente. No, non lo so se gioca domani o domenica, non lo so. Non lo so, neanche io. Va bene, dai, sono andato a salutarvi, buon proseguo, se ci siete a dopo, altrimenti alle velocimine, vai Gianfra. Sì, pensato. Mamma mia. No, che casinista. Guarda quanto sto diventando rincoglionito. Stavo cercando una frequenza, peccato che sono a memoria vuota, io girei in diventi un marco, dico ma che sono, guarda come funziona, e già lo credo, non c'è niente memorizzato. Adomi, 12 è ricoglionito a me, mi sa che siamo in due, là. Va bene, vado a cenare, dai, ci sentiamo dopo se ci siete, avanti Adomi. Vabbè dai, non succede nulla, dai. No, non te ne accorgi e perdi tempo. Vabbè, adesso con Claudio se ci mettiamo d'accordo facciamo un club degli anziani, ci facciamo dare un po' di soldi dalla regione e poi ci grattiamo tutto e ce ne scappiamo. Scappa. Attafagosi. Un attimino, dammi due secondi che scendo giù a cambiare l'acqua di olive. Anche io mi allontano un attimino. Sono qua, sono tornato, mi è caduto il microfono e speriamo che funzioni ancora. Sì, già ti funziona Marco, un attimino dammi. Eia. Sì, il microfono già funziona, altro è che è un po' arrugginito, un po' di via cal eccetera. Antonio, c'è ancora? Eccomi Marco, sono tornato. Eia, Antonio non ha ripreso e non so se ci sia ancora. Io sono tra, mi è caduto il microfono e un po' sto, la batteria è sempre scarica dello smartphone quando serve. Porca miseria, vabbè. Antonio, sono tornato un attimo per fare la pipì. E io pure, c'ho la vescica che un po' fa tipo zampogna, no? Siamo anche in tempo di zampognare adesso. Chi è? Gaffa, Antonio sono. Hai detto che attendo la radio, almeno posso stare un po' sdraiato. Okay? Ma pensa che io volevo prendere addirittura quel mic della Presidente. Ho lasciato perdere per quanto ne faccio radio, quello wireless mi pare sia DECT, tipo i cordless, cioè potrei stare comodamente sdraiato sul letto e parlare e ricevere attraverso il mic della President, si chiama President Mike, c'è un altro nome, cosa Mike, vabbè, poi ho lasciato perdere 90 euro e più pucci. Ma questa batteria carica è... eccomi qua. Hola. Appumpendi, andendi. Eia, non ho controllato Gianfra, peraltro la prima carica l'ho fatta con lo coperchietto della batteria aperto. No, nel caso che la batteria voglia gonfiarsi, esplodere, che ne so, magari se tende a gonfiarsi esce fuori sede, speriamo. Sai, con queste cinesate mi devo andare cauti. Anche la batteria è della stessa marca, marcata X-Data, X-H-Data, alias Radio Wow. Ehi, vabbè, poi non vuol dire niente, la marca... Sarò un bacio. No, qualche stazione per vedere come arriva, perché qua là c'è anche l'antenna inferita, guardate. Oia, riprendi Antonio. KK, con questo viene meglio, c'ha il microfono più lungo. Stavi dicendo wireless, ma veramente? Non è mo, per il re! Luca, stavo dicendo questo microfono wireless, praticamente io mi trovo curioso, funziona così, e ascolto da qua. Ah, boh, che chi l'ha detto? Ha detto Marco, stava dicendo. Marco, ma Marco è cuocuomane. Aspetta che mi impigiamo, va. Poveretto. Fra, ci sei? Perdonatemi, ma tra un messaggio e l'altro, aspetta, adesso metto la modalità risparmio energetico ultra, tanto è il 10%, non voglio che si comprometta la batteria. Dite di tutto. Appa, mi stavi dicendo che c'era questo microfono wireless, così è? Sì, per il President, è cablato per il President, quello Mac qualcosa. Sì, è praticamente tipo Bluetooth, DECT esattamente, DECT. E tu c'hai il microfono, puoi andare in qualsiasi parte della casa e ricevi anche dal microfono altoparlante, tutte e due qua, capito? Poi vabbè, se lo vuoi adattare ad altri baracchini devi però fare un macello, cambiare i cavi, non lo so, perché c'è una centralina che si innesta nella presa microfonica dell'apparato, capito? E poi ho lasciato perdere perché no, non ne frega niente. Per quanto sto entrando al baracchino. Vai Gianfra? Sì, niente. Io volevo salutare perché questo mal di gola mi sta uccidendo veramente. L'ho presa veramente brutta. Anche perché tanto sono quasi le 9 meno un quarto. Ciao a tutti, buon proseguimento e buona serata. Ah, ciao Gianfra, ci risentiamo alle prossime, avanti Marco. Gianfra, anche io stacco perché non riesco a seguire, sono troppo distratto da una cosa e l'altra. Ma poi per prove varie eventuali poi si faranno altri giorni se funziona tutto correttamente. Bene, tanto io devo staccare ugualmente. Adesso vi faccio un caffè decaffeinato. Me l'ho preso decaffeinato perché sennò a quest'ora comincia a essere preoccupante un po' il caffè. Inizia a avere qualche effetto negativo poi sulle attività notturne che dovrebbero essere di sonno. Ok. Riprendi Anto, dai, per i saluti a me e poi sentiremo quando capita. Cappa, dai, salutone Marco, dai, ci risentiamo alle prossime. Ok, Luca, ci sei? Luca?